La dottrina del purgatorio, insegnata dal cattolicesimo, non è da sottovalutare perché non è solo uno dei tanti suoi insegnamenti, ma è un dogma. Un dogma è quella verità immutabile e indiscutibile al quale il cattolico deve aderire o, come afferma il catechismo del cattolicesimo romano, è quella verità che obbliga il popolo cristiano ad un'irrevocabile adesione di fede. Questa definizione non è gratuita, perché il cattolicesimo ha una concezione della sua autorità che, a mio avviso, è a dir poco diabolica. Se qualcuno ha un sobbalzo di fronte a questa mia opinione in merito al cattolicesimo romano, posso comprenderlo, ma ho varie ragioni per pensarla così. Prendo come esempio una regola della Compagnia di Gesù, uno dei tanti ordini del cattolicesimo, dove troviamo scritto: per non sbagliare dobbiamo sempre ritenere che quello che vediamo bianco sia nero, se lo dice la Chiesa gerarchica, regola 13, inscritti ed sit P 183. La pretesa di una cieca, ed è il caso di dirlo, inteso in senso letterale ubbidienza, una obbedienza che non comprende solo ciò che si deve o non si deve fare, ma anche ciò che si deve o non si deve pensare, cioè i propri giudizi, è lecita solo rivolta a Dio. E se vogliamo, il Dio delle Scritture non vuole neppure questo, perché più volte invita il suo popolo a discutere con Lui, e i profeti più di una volta esposero i loro dubbi. Solo il diavolo pretende da coloro che lo servono un totale assenso della volontà, assenso che vediamo negli esorcisti quando vanno in trance. Ecco perché la pretesa del cattolicesimo romano di obbligare il popolo cristiano ad una irrevocabile adesione di fede nei dogmi, sia riguardo a quelli che hanno senso sia a quelli che ne sono privi, è diabolica. Ma dal punto di vista della religione cattolica romana ciò è ragionevole perché essa si ritiene la pura voce di Dio, perciò un atto di disobbedienza a essa equivale a disobbedire a Dio. E per questo, il 31 gennaio del 1567, Francesco Spinola, prete milanese, è gettato con le mani legate nella laguna di Venezia con la colpa di aver negato la dottrina del purgatorio e confessato la fede evangelica. Questo spiega perché è difficile, se non impossibile, per un cattolico affrontare l'argomento del purgatorio in modo obiettivo, perché comunque egli ragioni, comunque pensi, comunque la veda, alla fine egli non può concludere diversamente da ciò che sostiene il dogma del cattolicesimo romano. Eppure, poiché per la grazia di Dio molti cattolici romani sono stati liberati da una schiavitù di pensiero, esaminare il dogma del purgatorio alla luce della parola di Dio è opportuno e salutare. Cosa insegna il cattolicesimo romano in merito al purgatorio? Così si esprime il catechismo della Chiesa Cattolica Romana. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia con Dio ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, sono però sottoposti, dopo la morte, a una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione degli eletti, che è tutt'altra cosa del castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio, soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore. Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che ci è, prima del giudizio, un fuoco purificatore. Infatti colui che è la verità afferma che, se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Matteo mezzogiorno 31. Da questa dichiarazione si deduce che certe colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro. 1030 e 1031. Questa opinione sul purgatorio è in forte contraddizione con la parola di verità. Una persona che muore nella grazia di Dio non può essere imperfettamente purificata perché la grazia perdona tutti i peccati, altrimenti non è più grazia. Inoltre, se alcuni peccati devono essere espiati, significa che la morte di Cristo non è stata sufficiente per perdonare tutti i peccati, ed è stata una morte vicaria, parziale e non totale. Così, ancora una volta, il catechismo afferma: La Chiesa ha formulato. La Chiesa chiama. La tradizione della Chiesa. Non poteva esprimersi altrimenti perché, per formulare la dottrina del purgatorio, non è possibile basarsi sulla parola di Dio, come del resto il cattolicesimo si vanta di sostenere, affermando di proporre, come scrive nel Catechismo, verità contenute nella rivelazione divina. 88. Il commento che il Catechismo fa al versetto di Matteo sbaglia almeno per due motivi. Il primo è che dalla Bibbia non vi è alcun accenno che dopo la morte ci siano ancora colpe da espiare, come dimostra il testo di Ebrei. Questo è un concetto puramente religioso di chi cerca, cioè, di piacere a Dio con le proprie opere. La parola di Dio afferma instancabilmente che il giudizio avviene su questa terra, come asserisce Giovanni. Non si può costruire un articolo di fede così serio, deducendolo da ciò che un'affermazione non sostiene. Con questo atteggiamento possiamo definire vero ciò che vogliamo. Gesù ha sempre parlato chiaro. Ci sono solo due vie e due luoghi dove gli uomini andranno dopo la morte. Ancora una volta, constatiamo che il cattolicesimo insegna dottrine che sono precetti d'uomini, Matteo 15:9, che furono di scandalo a Gesù, Matteo 16:23. Il dogma del cattolicesimo sul purgatorio potrebbe sembrare una dottrina non così malvagia. Potrebbe sembrare pure uno di quei tanti argomenti che purtroppo creano degli steccati tra cattolici e protestanti, per cui alla fine si potrebbe anche terminare con un garbato sorriso. Ma questo dogma racchiude in sé tutta una serie di errori basilari che stravolgono le più grandi verità della scrittura. Il Papa Joseph Ratzinger si è espresso così in merito al purgatorio. Io credo che se il purgatorio non esistesse, bisognerebbe inventarlo perché poche cose sono così spontanee, umane, universalmente diffuse, in ogni tempo, in ogni cultura, della preghiera per i propri cari defunti. Così il teologo Ratzinger giustifica il purgatorio, la spontaneità naturale della preghiera per i morti. Ma ciò che è naturale non significa che sia lecito. Anche mentire è naturale, ma non significa che sia lecito. È vero che per una inclinazione naturale si è portati a pregare per i morti, ma questo non fa altro che provare che le nostre inclinazioni naturali sono sbagliate e religiosamente contrarie al volere di Dio. Se è vero, e lo è, che i nostri pensieri non sono quelli di Dio, come possiamo fidarci delle nostre naturali aspirazioni? Così ritenere che la salvezza proveniente solo da un atto di fede sia compiuta e nulla vi è da aggiungere è una conclusione che non rientra nella logica umana, perché nella natura dell'uomo vi è radicato il concetto che si debba fare qualcosa per ottenere il completo perdono dei peccati. E il purgatorio rientra in questa istintiva opinione, nonostante la parola di Dio più volte parli di un perdono totale che produce la certezza della salvezza. Quando Paolo scrisse la lettera ai Romani nei primi 7 capitoli espresse le dottrine del peccato e della perdizione di tutti gli uomini, dimostrò che il perdono di Dio era gratuito mediante un atto di fede, per poi concludere questo aspetto con un'affermazione che ha tutto il sapore di un grido di vittoria. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, Romani 8:1. Paolo non poteva esprimersi più chiaramente. Per quelli che appartengono a Cristo non vi è più nessuna condanna. Nessuna condanna e non la speranza di non essere condannati e quindi la possibilità di trascorrere in un luogo dove espiare i peccati. No, il concetto del purgatorio proprio non esiste nelle lettere paoline o in tutto il Nuovo Testamento. Il concetto del cattolicesimo secondo il quale si muore imperfettamente purificati non si trova nella parola di Dio neppure volendolo trovare. Forse nessun popolo religioso e ha o aveva riti religiosi come il popolo di Israele. Eppure dopo la morte e la resurrezione di Gesù, l'autore della lettera agli ebrei ha espresso con una chiarezza disarmante come il sacrificio di Cristo sia stato pienamente sufficiente per rendere giusto e perfetto chi pone fede in Dio tramite Cristo. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, Gesù invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti», aggiunge, «e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove ci è il perdono di queste cose, non ci è più offerta per il peccato. Ebrei 10:1-18. Con il suo sacrifico Gesù ha reso perfetti coloro che hanno posto fede in Lui, e per questo essi non offrono più sacrifici di riparazione, né avranno pene da scontare. Questo è il grande messaggio del Vangelo, che viene annullato con il dogma del purgatorio del cattolicesimo romano. Il credente cattolico accetta volentieri il dogma del purgatorio perché esso combacia molto bene con l'idea religiosa di dover fare qualcosa per ottenere la vita eterna, ma una volta realizzata la salvezza mediante una fede salvifica, comprende l'assurdità di tale dottrina. Conversando in merito al purgatorio con un teologo cattolico che conosce molto bene la Bibbia, gli chiesi come poteva accettare tale dogma. Pur rifiutando tale dottrina, mi rispose che se l'avevano stabilita, i suoi superiori era vera. Ancora una volta si è avverato il principio cattolico che dobbiamo sempre ritenere che quello che vediamo bianco sia nero, se lo dice la Chiesa gerarchica. Nel mio cuore è salito di nuovo un canto di gioia, perché il mio Dio, il Dio trino delle Scritture, non mi chiede tanto. Nota. Il Papa Gregorio Magno parlò di un terzo stato, un luogo per la purificazione delle anime prima del loro ingresso in cielo, intorno al 593. La dottrina del purgatorio fu dichiarata dogma nel Concilio di Firenze nel 1439. Una dottrina simile era già in Platone, tra gli stoici, nella religione zoroastriana e in molte religioni, compreso il buddismo. Ottobre 2005. Ellero.